Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Oh, and look. Look at that. It's my grandmother's silver cheese platter. We used it to serve nachos. Well, nachos have cheese in them. Cheers. È l'inizio della seconda parte di Eclettica di quest'oggi. Le frequenze sono quelle di Rock FM, la voce è quella di Giulio Caperdoni, tutti i giorni presente fra le 19 e le 20. Vi devo confessare che questa settimana è influenzata da quello che mi è successo personalmente negli ultimi giorni, da quali sono i concerti a cui ho avuto occasione di assistere. Per quanto riguarda Ennio Morricone, avete già avuto modo di capirlo, è stata una presenza in Profumo di Eclettica un po' forzata, perché non è che sia stato presente nelle playlist di Eclettica degli ultimi 14 anni, soprattutto poi con quel brano Armonica, ma sicuramente Morricone permea tutte le scelte che vengono fatte in Eclettica, ha influenzato sicuramente molto la mia crescita musicale, quindi sono andato a inserire in Profumo di Eclettica un suo pezzo così d'atmosfera. Come anche mi è capitato di vedere nei giorni scorsi dal vivo, di rivedere nei giorni scorsi dal vivo Lou Reed, quindi sono andato a scegliere proprio per questo motivo i suoi testi da leggere negli spazi tipicamente dedicati agli incipit. Questa seconda parte si è aperta con un nuovo disco intitolato Se dice bisonte, no bufalo, di Omar Rodriguez Lopez dei Mars Volta, ora, prima di altre cose che dovreste conoscere, quindi non vi vado a ripetere. Si prosegue invece rimanendo ancora in California con Farabye Lionheart. Sarò il tuo specchio. Rifletterò quello che sei, nel caso non lo sapessi. Sarò il vento, la pioggia e il tramonto, la luce alla tua porta, per mostrarti che sei a casa. Quando credi che la notte abbia invaso la tua mente, che dentro sei confusa e indurita, lascia che ti mostri che sei cieca. Tira giù le mani perché ti veda. Trovo difficile credere che tu non sappia la bellezza che sei, ma se non lo sai, lascia che io sia i tuoi occhi, una mano nel tuo buio, perché tu non abbia paura. Quando credi che la notte abbia invaso la tua mente, quando dentro sei confusa e abbruttita, lascia che ti mostri che sei cieca. Per piacere, tira giù le mani, perché io ti veda. Sarò il tuo specchio, rifletterò ciò che sei. Questa era I'll Be Your Mirror di Lou Reed. Party's over. Party, Molly, for the love of God, please. We heard there were some bad boys in here. There were, but they left. Up and fall on me. Dalla costa ovest alla costa est, è così il passaggio dal punto di vista geografico che stiamo affrontando in questi minuti in Eclettica. Infatti ci siamo appena ascoltati gli Ellal con Esophagus. Vi invito a leggere le playlist di Eclettica per vedere correttamente come è scritto il nome della band, playlist che potete ricevere direttamente nella vostra casella di posta settimana per settimana se scrivete a giulio@radiorockfm.com e chiedete di essere iscritti nella lista nera, oppure andate a cercarle su myspace.com/Eclettica, una band per la quale mi sono arrivati anche dei mail dopo che li ho trasmessi per la prima volta la scorsa settimana. Vi dicevo di costa est degli Stati Uniti, anche se loro sono a tutti gli effetti originari di Taipei, ma è lì che stanno portando avanti la loro carriera musicale, a New York. Misha è il nome del duo, Summer Sand è il titolo del brano. Love's the one you wait for. Eccola che arriva. Attento a come ti muovi. Ti spezzerà il cuore in due, è vero. Non è difficile accorgersene. Basta guardare il colore falso dei suoi occhi. Ti esalterà solo per umiliarti. Che pagliaccio. Perché tutti sanno le cose che fa per farti piacere. Non è che una smorfiosetta. Guarda come cammina, senti come parla. Ha scritto di te nel suo diario. Sei il numero 37. Dacci un'occhiata. Sorriderà per farti mettere il muso. Che pagliaccio. Ragazzino, lei viene dalla strada. Prima di cominciare ti ha già vinto. Si prenderà gioco di te come un fantoccio. È proprio così. Perché tutti sanno le cose che fa per farti piacere. Non è che una smorfiosetta. Guarda come cammina. Senti come parla. Questa era Femme Fatale di Lou Reed. Eclettica. Stagione numero 13, settimana numero 40, volume numero 2. Indice. Stateless. Ennio Morricone. Marchos. The Love Tones. Whitey. Get Him, Eat Him, assieme a Beirut. Omar Rodriguez Lopez. Farabee Lionheart. Uncle assieme a Josh Home, Ilal, Misha, Dan Deacon. Giulio Caperdoni vi saluta e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.